Mix 24 di Giovanni Minoli. Sì, gruppo in corso regina. Senti, è successo un incendio, ci sono 3 o 4 ragazzi bruciati. 8 anni e mezzo dopo quella tragica notte alla Thyssen, con 7 operai morti nel rogo allo stabilimento delle acciaierie di Torino, la Cassazione conferma le condanne nei confronti dei 6 imputati. Le pene vanno dai 9 anni e 8 mesi ai 6 e 3 mesi. Confermato quindi il verdetto della Corte d'Assise d'Appello del 29 maggio dello scorso anno. Dunque, dopo quasi 9 anni di sentenze e di marce indietro, arriva il verdetto della Cassazione che chiude in maniera definitiva la vicenda della ThyssenKrupp. Nel rogo dello stabilimento di Torino, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, persero la vita 7 operai dell'acciaieria. Si chiude così una vicenda di cronaca e giudiziaria che ha segnato 7 famiglie, la città di Torino, il paese intero e la sorte stessa dello stabilimento in via di dismissione all'epoca e poi chiuso definitivamente nel 2008. Ma la storia dell'azienda tedesca, leader in Europa nel settore siderurgico, viene da molto lontano. Per ricostruire la storia della Krupp bisogna tornare indietro, agli anni della Seconda Guerra Mondiale, una storia fatta di complicità col regime nazista in nome di un interesse economico reciproco tra Hitler e la Krupp. Novembre 1947, Essen, Germania nord-occidentale, acciaierie Krupp. Gli alleati radono al suolo ciò che resta della più grande fabbrica di armi del Terzo Reich. 17 novembre 1947, Norimberga. A un anno di distanza dal processo contro i principali leader politici del Terzo Reich, il Tribunale Militare Internazionale apre un nuovo dibattimento. Sul banco degli imputati, questa volta, ci sono gli uomini che hanno finanziato la guerra di Hitler. Uno di questi è Alfried Krupp. Per l'accusa, Alfried è colpevole di crimini contro l'umanità. Nel corso del processo, l'avvocato difensore teme il peggio. E invece alla fine Krupp sarà condannato soltanto a 12 anni di prigione. Nel 1951, appena 3 anni dopo la sentenza di Norimberga, il barone dell'acciaio, rampollo della ricca e potente famiglia che ha armato la Germania di Hitler, sarà di nuovo il capo della sua azienda. La guerra fredda e la logica dei blocchi contrapposti, le necessità della ricostruzione, gli hanno restituito il ruolo che gli era sempre spettato. Ma cosa ha trascinato un uomo d'affari come Krupp sul banco degli imputati del processo di Norimberga? Alla sbarra con i finanziatori del nazismo, fianco a fianco con i responsabili dei più terribili crimini del Novecento. Alfried Krupp, il barone dell'acciaio, è l'erede di una delle più grandi e importanti famiglie di industriali della Germania. Il suo acciaio è considerato il migliore e il più duro del mondo. Un simbolo per la Germania del Kaiser Guglielmo II. È anche un impero. 120.000 persone lavorano per i Krupp ad Essen. Novembre 1918. La Prima Guerra Mondiale ha portato la Germania sull'orlo del baratro. La crisi economica colpisce l'intera nazione. Nel paese dilaga la rivoluzione sociale. I tumulti sono all'ordine del giorno. 9 novembre, il Kaiser è costretto ad abdicare. Nasce la Repubblica di Weimar. 11 novembre, il nuovo governo firma la capitolazione dell'esercito tedesco. Un anno più tardi, il Trattato di Versailles vieta alla Germania la produzione di armamenti. Per i Krupp è un duro colpo. All'inizio degli anni 30, i manager dell'industria siderurgica e del carbone si riuniscono in una lobby segreta, la Ruhrlade, per definire strategie ed obiettivi dell'economia tedesca. Intendono tenere Hitler lontano dalle stanze del potere. Fritz Thyssen non è d'accordo. Insieme a Krupp è l'altro gigante dell'acciaio della Ruhr. Thyssen vede in Hitler una grande opportunità per l'economia tedesca e lo appoggia finanziariamente. Sembra non voler riconoscere i veri obiettivi di Hitler. In realtà si trattava di un atteggiamento molto superficiale. Lo stesso Thyssen ammise di non aver mai letto il Mein Kampf. Se poi si considera la sua simpatia personale nei confronti di Hitler e la venerazione che provava per il suo Führer, come osava definirlo, non c'è da stupirsi del suo iniziale sostegno al nazismo. 30 gennaio 1933. Hitler viene nominato cancelliere del Reich. In qualità di presidente dell'Associazione del Reich per l'industria tedesca, anche Gustav Krupp si congratula con il nuovo capo del governo. A Villa Hügel l'entusiasmo è contenuto. 28 giugno 1934. Hitler si reca ad Essen. Visita gli stabilimenti Krupp, ma l'accoglienza che riceve è fredda. La titolare unica dell'azienda non va nemmeno ad accoglierlo. Un affronto che Hitler fa fatica a digerire, ma la collera del Führer svanisce presto in nome del comune interesse. Hitler inizia a ordinare armi alla Krupp, armi che considera le migliori sul mercato. Per ringraziare, Gustav Krupp versa una nuova tranche di 100.000 marchi al partito nazista. Norimberga, 15 settembre 1935, raduno del partito. Il nome dei Krupp entra nel vocabolario della propaganda nazionalsocialista. Ai nostri occhi, il giovane tedesco del domani deve essere snello e slanciato, agile come un levriero, tenace come il cuoio e duro come l'acciaio Krupp. Essen, 27 marzo 1936. Il Führer viene acclamato dalla folla. Adesso Hitler, il proletario, è l'ospite d'onore a Villa Hügel. Anche la critica signora Krupp è affascinata dall'uomo che ha risollevato le sorti della nazione e raddoppiato il patrimonio di famiglia. Sono molte le industrie che partecipano al riarmo della Germania nazista. Il Bochumer Verein, Flick, Hösch, Siemens. Ma per Hitler l'acciaio di Essen non ha rivali. I Krupp sono l'incarnazione stessa del Reich millenario. 1 settembre 1939 ha inizio la guerra di Hitler con le armi dei Krupp. La Polonia viene travolta in sole 5 settimane. Ma non tutti hanno fiducia nella vittoria finale. Uno dei manager di Hitler è inorridito. Fritz Thyssen ha capito che il suo Führer è un criminale. 28 dicembre 1939. Thyssen scrive una lettera a Hitler in cui rimprovera anche se stesso. Il mio unico errore è stato di avere creduto a lei e al movimento da lei creato. La sua nuova politica è un suicidio, il declino del nostro paese. Fu un atto di grande coraggio, non fu solo un gesto spontaneo ed emotivo, ma dette ampio respiro ai suoi sentimenti. Disse al Führer: questo è quello che penso, questa è la mia posizione, non posso fare altro. Un coraggio che costerà caro a Fritz Thyssen. Viene arrestato ed espropriato dei suoi beni. Gustav Krupp si comporta esattamente al contrario. Con la guerra si accende in lui un nuovo spirito. Gustav è responsabile della politica economica del Reich per gli armamenti. Gli stabilimenti Krupp producono micidiali armi di distruzione per la Wehrmacht. Come il cannone Dora, soprannominato il Grasso Gustav, è il più grande pezzo d'artiglieria mai costruito. È lui a sgombrare la strada verso Stalingrado. Gennaio 1942, il periodo delle guerre lampo è finito. Sempre più cittadini tedeschi devono partire per il fronte. Fra questi anche molti lavoratori della Krupp. Le perdite aumentano a dismisura. La ditta manca di manodopera. La produzione rischia di fermarsi. Come rimpiazzo, il regime offre prigionieri di guerra russi ed internati provenienti da ogni parte d'Europa. Saranno loro a colmare i vuoti dell'organico. Krupp si dichiarò contrario fino all'ultimo, semplicemente perché non sapeva che farsene di quegli uomini. Non gli serviva manodopera generica, non specializzata. Ma li prende lo stesso. Nel corso della guerra vengono deportati nel Reich tedesco più di 5 milioni di persone. Oltre 100.000 prigionieri arrivano ad Essen. Vengono smistati nei campi di lavoro della Krupp. Il 18 marzo 1942 un dipendente della Krupp scrive: oggi da mangiare c'era un po' d'acqua con qualche rapa. Che senso ha far crepare così questa gente? Se devono lavorare per noi, dobbiamo provvedere al loro sostentamento. Ogni volta che incontro qualcuna di queste figure scheletriche, sento correre un brivido lungo la schiena. Febbraio 1943. La grande controffensiva aerea alleata si scatena nei cieli del Terzo Reich. Le acciaierie di Essen sono un obiettivo primario. In tutta la guerra, la Krupp viene attaccata dal cielo 55 volte. 5 marzo, in un solo giorno vengono sganciate 30.000 bombe. Le vittime si contano a migliaia. Per i dipendenti tedeschi ci sono rifugi antiaerei. Gli internati sono carne da macello. Le bombe cadevano a centinaia. Abbiamo visto cadaveri bruciati appesi al filo spinato. Era terribile. C'erano cadaveri sparsi ovunque. Ampi settori della fonderia di Essen vengono distrutti sotto le bombe. La Wehrmacht e le SS decidono allora di spostare i segmenti più importanti della produzione in un luogo sicuro. Riunione del 16 marzo 1943 nella rappresentanza della Krupp. Oggetto: spostamento della produzione di detonatori ad Auschwitz. In sostanza, Alfred Krupp era disposto a organizzare la produzione di detonatori. Perché no? Anche ad Auschwitz. Probabilmente era all'oscuro delle atrocità che venivano commesse nel campo e che in quel periodo avevano raggiunto il culmine. Ma il ritmo dei lavori non va di pari passo con quello delle morti. L'alto comando dell'esercito tedesco è scontento. Viene inviata una lettera di richiamo ad Alfred. Illustrissimo signor Krupp, purtroppo si è avuta l'impressione che per qualche motivo la produzione di detonatori ad Auschwitz non abbia ricevuto quell'attenzione che avrebbe meritato. La preghiamo, pertanto, di interessarsi personalmente al caso, onde evitare ulteriori inconvenienti. Alfred chiede una proroga. Promette che i lavori riprenderanno al più presto. Purtroppo non è stato possibile procedere al trasporto dei macchinari nel tempo previsto. E al processo di Norimberga nel 1947 questa lettera inchioderà Alfred Krupp alle sue responsabilità. 11 aprile 1945. Gli americani entrano ad Essen. Hanno un obiettivo: arrestare quello che considerano il più potente industriale tedesco. Alfred sa di essere in pericolo, ma non fugge. Si costituisce. Villa Hügel viene occupata dagli alleati. I Krupp sono criminali di guerra da processare. The Krupp family. La famiglia Krupp, che insieme agli altri industriali tedeschi ha prima sostenuto Hitler e poi prodotto per lui le armi per dominare il mondo, è stata arrestata. Aveva armato la Germania nella guerra franco-prussiana. Nella prima guerra mondiale costruito cannoni per il Kaiser ed il primo sommergibile della flotta tedesca. I Krupp sono responsabili quanto Hitler e Göring per la morte dei soldati alleati. Si sono arricchiti uccidendo. E da un caso finalmente chiuso, a re dei casi letterari. Andrea Camilleri, 90 anni e il centesimo libro appena uscito, L'altro capo del filo, edito da Sellerio. Un risultato incredibile, specie se si tiene conto del fatto che con i romanzi l'autore di Montalbano ha iniziato tardi, dandone alle stampe una novantina solo nell'ultimo ventennio. Ecco, Camilleri, sono 4,5 libri all'anno, ma come ha fatto? Con la metodicità. Cioè, lavorando ogni mattina come un buon impiegato della scrittura, senza avere distrazioni, facendo 6 giorni alla settimana lavorativi, ci si arriva tranquillamente. A Elvira Sellerio lei diceva di essere uno scrittore dal respiro corto, e invece quando ha capito di essere un maratoneta? Correndo, cioè a dire... La mia idea era quella di essere un 100-metrista, di avere uno scatto e il fiato per i 100 metri. Poi invece correndo, mi sono accorto che potevo fare anche la maratona, ma è stata una scoperta nel corso degli anni. Senta, da 59 anni è sposato con la stessa donna, quindi lei è un maratoneta in tutto? Sì. Soprattutto in questa seconda, diciamo, prova, quella del matrimonio. Bisogna essere molto bravi e soprattutto essere non una corsa solitaria, è una corsa a due. E allora ci si può dare un qualche aiuto reciproco. Ma quindi è l'allenamento il segreto dei maratoneti? Credo che l'allenamento è il segreto di qualsiasi cosa. Dei pianisti, degli acrobati, anche dei maratoneti. E quindi anche la fantasia si allena? La fantasia via via che si esercita si sviluppa sempre di più, proprio si allarga come un orizzonte che si schiara all'improvviso, si apre all'improvviso ed è sempre un po' più in là con la fantasia, sempre tenendola in esercizio. Senta, lei oggi non scrive ma detta, però sì. Non si nota alcuna differenza. Com'è possibile? È possibile perché succede che la dattilografa in grado di capire il mio vigatese è perfetta, quindi lavoriamo in simbiosi e allora non si nota la differenza. Che poi dattilografa d'occasione. passione, diciamo, che è Valentina Alferi, che lavora con me da 15 anni, quindi ha imparato il brigatese. Senta, nel suo viaggio negli Stati Uniti, il premier Renzi ha incontrato Bill Clinton, il quale gli ha chiesto di intercedere per lui, insomma, voleva conoscerla. Che effetto le ha fatto? Beh, molto gratito, veramente con sorpresa e un piacere enorme. Cioè, sapere che tra i tuoi lettori c'è anche un ex presidente degli Stati Uniti, insomma, non è cosa di tutti i giorni. E soprattutto per quello che ha detto, cioè d'aver fatto una sorta di prevalenza del romanzo storico. I suoi preferiti? Il Berraio di Preston rispetto ai Montalbano dimostra anche che ha buon gusto. Quindi sono rimasto molto contento. E vi siete anche scritti? Sì, sì, ci siamo scambiati così la promessa di vederci. Dice, se vieni negli Stati Uniti dammo un colpo di telefono, credo che sarà difficilissimo questo, è più facile incontrarlo a Roma a marzo quando ha detto che verrà. Senta, il suo Montalbano ci racconta sempre il presente e con l'altro capo del filo è la volta dell'immigrazione. Ecco, sì. Ma l'Italia che paese è diventato? È diventato assai difficile perché c'è un eccesso di problemi in cui l'emigrazione, la disoccupazione giovanile, il forte deficit che noi abbiamo, sono problemi quotidiani, cioè è una situazione estremamente difficile che può aggravarsi a secondo di come evolveranno le varie, diciamo, i vari stati nazionali che compongono l'Europa. Il problema grosso è che non c'è una politica comune, ogni Stato fa politica a sé, l'unica cosa di comune che abbiamo è l'euro, perché a sto punto anche Schengen, cioè a dire l'abolizione delle frontiere, pare che incontri molti problemi e quindi l'Italia è in mezzo a una sorta di tempesta continua e credo che sia difficile manovrare in queste condizioni. Il centesimo libro di Andrea Camilleri, l'altro capo del filo, Sellerio. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Buongiorno Alessandra Cravetto. Ciao Ale, buongiorno. Buongiorno, come stanno le smamme? Beh, a questo punto dell'anno non so tu, ma io sto a pezzi, non ce la faccio più, non vedo l'ora di finire la scuola e tutto quanto. Per cui per tirare avanti ho capito che ci vuole fantasia. Ma lo diceva poco fa Camilleri, oggi è il giorno della fantasia allora. E pensando alla fantasia che ci può salvare, mi è tornato in mente questo film di quando eravamo bambine noi. Fantasia è stata distrutta. Te lo ricordi? Fantasia? Sì. È la storia infinita. Brava. Grazie. È stato tutto inutile. No, dai, non essere così negativa. Fantasia può ancora risorgere. Ce la faremo. Fantasia. Dai tuoi sogni e dai tuoi desideri. Comunque, te lo ricordi la trama del film stupendo in cui lui ricostruiva il regno di Fantasia con la sua fantasia? Ecco, è bellissimo. Bellissimo. Quindi la fantasia abbiamo detto che è fondamentale. Allora, ho trovato una app bellissima. Non avevo dubbi. Che si chiama Color Vacuum e che nasce dalle presunte invenzioni di un professore del fine dell'Ottocento, questo professor Victor Vapori. O Vapori. O Vapori. Fantasia. O Fantasia, non si sa. Che era detto lo scienziato dei sogni, che avrebbe creato una macchina per catturare il colore. Morale, i bambini di oggi, usando l'iPhone come lo usano loro, fanno delle fotografie e dalle fotografie il colore che viene fuori viene trasformato in un'enorme bolla galleggiante. Una bolla galleggiante di colore. E giocano con queste bolle. Bisogna provarlo però, insomma. Che fantasia, lo provo. Tanta, dici che lo devo provare? Io lo devo provare. Sì, tu provalo. Ma perché? Perché ho capito, perché io non ho fantasia, no, quindi io lo devo provare. Secondo me tu ne hai poca, però invece in questi giorni, sfogliando i giornali, ho trovato chi di fantasia o fantasia ne ha tantissima e in particolare la persona in questione è uno dei candidati sindaci di Roma. Ah, ma no, guarda, la questione lì è un'altra. Qual è? Non sei romana e non capisci la fantasia. Non ho la fantasia romana. Però te ne leggo qualcuna. Vai. Perché queste sono straordinarie. Vai. Allora, A. Creare una funivia al posto della metropolitana per migliorare la viabilità di Roma. E vedi che non capisci. Straordinaria. No, ma non capisci, perché Roma ha un grande problema di traffico. E ci vuole fantasia. Quindi ci vuole fantasia. Ecco. Due. Sì. Variare la colorazione dei pullman. Perché l'arancione sbatte. Le sta male. Non sta bene. E l'ultima, che ci riguarda direttamente mamme e smamme, è donare un fantastico kit per lavare i pannolini dei bebè a casa. Io la trovo... No, questa io non l'ho capita, scusa. Allora, lavare... Ma hai capito chi è? No. Allora, ti do un altro aiutino. Ok. Creare delle cooperative di quartiere per il lavaggio dei pannolini in comune, tutti insieme. Ma quindi io lavo quello di tuo figlio, cui pure voglio molto bene, e tu lavi quello del mio, che è insomma un'esperienza forte. Può succedere. È una condivisione. Ma come te la immagini? Non sei generosa. Bene. Certo, è come fantasia. Ecco, vedi, allora, tu di fantasia ne hai tantissima e la raggi anche. Però per tutti quelli che invece hanno bisogno di svilupparla ulteriormente, vi ricordo che l'app si chiama Color Vacuum. Usatela. Tu no? La io raggi? No, neanche. Io no. I David di Donatella, che poi sono io. Buongiorno Donatella. Sì, buongiorno, sono stanchissima. Non mi sono ancora ripresa dal viaggio di ritorno da Cannes. Una disperazione incredibile. Ok, capisco, incredibile. Bentornata. Ma che? Sono tornata malissimo. Allora, prima avevo chiesto un passaggio a Budale. Sì, mi ricordo. Che tanto doveva venire a Roma, no? Poi ho provato a fare pace con Valeria Gallina, che mi aveva litigato. E lei mi ha dato appuntamento sull'autogrill e non si è presentata. E hai capito? Ho capito, Donatella. E com'è tornata? Sono dovuta tornare con un pullman di suore polacche. Hai capito? Non sono mai state zitte. Hanno cantato sempre i canti della chiesa con le vocine ululanti. Sei laudato! No, sì, Donatella, fatto... sì, ho capito. Hanno fatto la strada passando per l'Albania. 4 giorni ci abbiamo messo. Tu l'hai mai sentito cantare qualcuno per 4 giorni? No, sei? No, Donatella, sì, francamente no. Ma lei è riuscita a riposare? Per dormire ho provato a cantare le osterie. Tu le sai? Sì, Donatella, le so. Osteria numero. No, Donatella, no, tanto, Donatella. Fai paraponzivo. Ma non mi pare proprio il caso, Donatella. Ti pareva? Ma un attimo di allegrismo fai tu. Comunque, appena tornata, ho avuto il tempo di vedere un film veramente bello. Ve lo posso dire. Si chiama Colonia. Lui dov'è ora? In un posto nel sud, completamente isolato dal resto del mondo. Come si chiama? Colonia Dignità. Hai capito? Ci sono due fidanzati che si ritrovano improvvisamente in mezzo al colpo di stato di Pinochet. No, Donatella, Pinochet. Io ho detto, solo che io l'ho detto in chileno, che tu chiaramente questa lingua non la sai. Ah, deve essere quello il problema, ha ragione. Comunque in italiano, facciamo in italiano il Pinochet. Pinochet. Va bene. Comunque i militari arrestano lui e lo portano in un posto schifoso dove gli fanno malissimo. E allora lei che fa? Si fa assumere come cattiva orrenda per andare in quel posto e salvare lui, che nel frattempo però si fa passare per scemo, perché così se lui è scemo gli menano un po' meno, che alla fine certe volte conviene pure farsi passare per scemi. Guarda te, per esempio. Senta, lo sa Donatella, mi mancavano i suoi complimenti e poi come sempre io le voglio fare anche io i complimenti, perché lei è stata chiarissima come sempre. Perché? No, niente, no, così. Ma dai, tu però lo sai che io in fondo ti voglio bene, scherzo. Non so manco che faccia c'hai. Come sei fatta? Donatella, andiamo avanti, mi dica del film. Dai, puoi anche dire una bugia, dire che sei magra invece sei cinghiala. Tante radio non ti vedono e neanche ci sono le tue foto su Google, ho guardato. Google, Donatella. Senta, Donatella, mi dice del cast di Colonia? Non lo so, no. Perché? Sei sorda, ho detto che non lo so. Va bene. Non ho fatto in tempo a leggerlo. Va bene, vale la pena vedere Colonia di Florian Gallenberger con Emma Watson e Daniel Brühl? Certo che vale la pena. È un film di amore, di colpo di stato, di violenza, di disperazione, di paura, di scappare, di cattiveria, di speranza. Donatella? Di malinconia, di guerra, di ritrovamento. Donatella, grazie. Grazie. Storia, prego. Dai, allora, io canto l'osteria numero 7 e tu fai paraponzi con Sivò. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Dove andiamo oggi? Oggi ci facciamo stretti stretti, poi magari ci dilatiamo, ci infiliamo dentro la fisarmonica del maestro Piscopo, che è qui con noi. Buongiorno maestro. Buongiorno a tutti voi, questa trasmissione bellissima che è seguita da tutti e che porta allegria e sempre il sole. Ma lei l'ultima volta ha fatto ballare una tartaruga? Sì, io mi diverto, diciamo che almeno nella vita ho avuto la fortuna di lavorare con i bambini che mi fanno sognare, perché anch'io mi sento un bambino. Maestro, un colpo di musica nel frattempo che vossia parla. Sì, un attimo che me la devo mettere prima addosso questa fisarmonica, così posso suonare, un secondo preciso. Ma la sua fisarmonica, che è antichissima, quanto l'ha pagata? $350 in America, con un patto che dovevo suonare solo le cose della Sicilia e nient'altro. E l'ha rispettato? No, l'ho rispettato, io sono le musiche dei barbieri. Musiche di barbieri e nel frattempo storie da raccontare ai bambini, giusto? Tutte le storie ai bambini, le storie del mondo, le storie, diciamo, che io ho potuto vedere, scoprire. Allora una storia veloce, coi tempi radiofonici, velocissima, una storia veloce di fisarmonica e parole. Vediamo, ascoltiamo. Vediamo che io ci provo. Nel mio cortile vivevano i ciechi, erano due ragazzi che non vedevano niente secondo gli altri, ma loro vedevano il mondo e me lo sapevano raccontare, prendevano le mani di un bambino e dicevano il peso che loro avevano. E io gli dicevo: com'è il mare oggi? Loro mi dicevano agitato. I non vedenti vedevano di più degli altri. Questa musica l'ho dedicata a loro. Maestro, sì, ma cosa sono i Carusi di Zolfo? Carusi di Zolfo è il prossimo libro sul quale sto lavorando con Salvatore Ferlita, Peppe Calabrese ed altri amici. Raccontare tutto il dolore che hanno vissuto i bambini fino alla fine degli anni 50, ecco, gli anni 40. Bambini che a 8 anni lavoravano all'interno delle viscere della terra, l'inferno vero, e bambini che non riuscivano a crescere perché la colonna vertebrale si spezzava e quindi avevano l'anchilomastosi. Nei libri della scuola non c'è niente di tutto questo e io desidero che i bambini, le nuove generazioni, gli adulti riflettano sulla storia che hanno sofferto i siciliani, che storie grandi, importanti hanno vissuto. Grazie maestro. Grazie maestro. Grazie a voi. Buona fisarmonica. A presto. Con un'altra musica siciliana. Certo. Caro Franco, buongiorno. Cara Alessandra, buongiorno a te. Franco, a me i Yes mi fanno impazzire. Anche a me, però devo dire che quando li sento tante volte mi viene una lacrimuccia. Addirittura? Sì, perché ricordo il 1984, era il 30 maggio. E che è successo, Franco? E io ero a New York con gli Yes. Abbiamo fatto una scommessa perché c'era la Coppa Campioni a Roma e io dissi al cantante John Anderson, dico: non ne uscirete vivi dall'Olimpico. E invece? Avete avuto una sfiga tremenda a giocare a Roma. Quindi ci siamo scommessi una cena per tante persone e l'ho pagata io. Perché? Perché la Roma perse ai rigori. E quindi, vabbè, nonostante però gli Yes sono sempre un grandissimo gruppo. Hanno inventato il prog, quello ad altissimo livello. Non è che l'hanno inventato, però hanno portato. Quanto ti piace dire prog? Prog, tantissimo. Prog, progressive. Comunque, un concerto da non perdere assolutamente. Domani al Berkeley Teatro Nazionale di Piazza Piemonte a Milano alle ore 21. Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. Beh, senti, scusami, questo mi piace da pazzi, non che gli Yes non piacesse, però questo mi sa che lo vado a sentire, dimmi un po'. Elvis Costello, pensa che questo brano in particolare lo ha inciso Linda Ronstadt. Una amica mia, Linda Ronstadt. È un'amica tua. Comunque è una cantante molto famosa americana, californiana, e lei lo portò a successo e fece finalmente fare a Elvis Costello i primi soldi veri della sua vita, quindi gli sarà eternamente grato. Comunque, c'è un certo affetto, mi dici. C'è un certo affetto, certo. Ma non soltanto di natura economica, perché poi sono conosciuti e sono andati sempre molto, ma molto, molto d'accordo. Comunque, non, che altro possiamo dire di lui? Che è stato inducted nella Hall of Fame, che è stato, che ha vinto Franco tutti voleva i premi. Dire inserito, questo volevi dire? Ah già, scusa, certe grazie, volte dimentico l'italiano, non so come dire questo, però in italiano meno male che ci sei tu, cara Alessandra, grazie. Prego. Comunque non lo perdete questo Elvis Costello, dopodomani all'Auditorium Parco della Musica a Roma alle ore 21. Hello, I'm James Dean. I find myself being very cautious on the highway. I don't have the urge to speed on the highway. People say racing is dangerous, but I'll take my chances on the track any day. Guarda, non che James Dean possa avere degli eredi, però ti posso dire una cosa. Dillo, Alessandro. Ma so come che ce la lo dire. Vedi Harrison Ford? No? No, non va bene. Vabbè, io ho una certa passione per Harrison Ford. Io no, cioè, il professore mi piace tantissimo dell'Arca anche. Perduta. Assolutamente. È lui. Sì, lo so che non è lui. Lo sai che da quando hanno prodotto quei film le iscrizioni ad archeologia, eccetera, sono salite del 50 tantissimo. Miliardi. Oh, questo è James Dean. Pensa che lui con soltanto... Sono tre film. Quelli importanti, è riuscito a creare un'immagine che ancora oggi è rimasta indelebile. Dicono che certi artisti vendono più da deceduti che da vivi, tipo, che ne so, Elvis Presley, Michael Jackson. O quando smettono di cantare. Sì, ma questo a livello di merchandising, ancora tutti comprano il poster di James Dean, bianco e nero classico, da mettersi nella stanza. Comunque lui è diventato un mito, perché? Perché è riuscito a vincere questa sfida con il conformismo, diventando un simbolo di intere generazioni, di quelle che avevano... come si dire, avevano eliminato il gap tra quelli che erano passati dalla fine della seconda guerra mondiale direttamente agli anni 50. Comunque, e al rifiuto del Vietnam. Assolutamente. Diciamo. Una vita molto breve e veloce, però ce la racconta con calma Giovanni Minoli. Restate in ascolto.